Il punto di Stefano Folli. Sul caso genovese, Renzi e il Partito Democratico non avevano probabilmente alternative. Hanno votato alla Camera per l'arresto del deputato anche perché la campagna dei 5 Stelle era diventata troppo pressante e una dilazione dei tempi diventava rischiosa, visto che siamo alla vigilia delle elezioni. Diciamo che si sono limitati i danni. Tuttavia ci sono due aspetti da considerare. Il primo è che il PD ha dato l'impressione di oscillare nell'incertezza, per cui alla fine la scelta è sembrata essere dettata soprattutto da ragioni politiche, quelle che abbiamo detto, piuttosto che da considerazioni di merito. Il secondo è che comunque la decisione è stata presa misurando la propria corsa elettorale su quella dell'avversario numero uno, cioè Grillo, il che diventa obbligatorio in certe circostanze, ma non è di sicuro una dimostrazione di forza e di serenità. Può essere pericoloso andare sul terreno dell'avversario nella speranza di neutralizzarlo rubandogli gli argomenti. Si rischia addirittura di dargli un vantaggio. Ma manca una settimana al voto e, come si dice, la guerra è guerra.